9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno, ecco Oscar Giannino tornare dallo studio. Oggi ci occupiamo della enciclica in materia di economia, mercato, società, interrelazione tra gli uomini nella produzione non solo di beni materiali, ma della interdipendenza nel rapporto tra ciascuno, tra le persone, che è al centro della persona e al centro della dottrina sociale della Chiesa. Questo nuovo aggiornamento della dottrina reso ieri con la pubblicazione di un'enciclica da lungo tempo attesa, un'enciclica che ha dovuto in qualche maniera essere anche, non dico riscritta, ma aggiornata alla luce della crisi economica e finanziaria esplosa sui mercati. E oggi tutti i giornali del mondo rendono alla Caritas in Veritate la giusta importanza. Il Financial Times c'ha il taglio in basso di prima pagina di oggi con un titolo che dice: il Papa chiede un'autorità mondiale per condurre al ritorno dei valori etici del mercato. Io vi presento subito i nostri ospiti e vi chiedo di intervenire, il numero è 800 24 00 24 per porre a loro i vostri interrogativi. Allora, abbiamo collegati con noi per approfondire i temi dell'enciclica il professor Stefano Zamagni. Buongiorno professor Zamagni. Buongiorno. Professor Zamagni insegna economia politica all'Università di Bologna e è consultore del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace e tra coloro che ha dato una mano, per così dire, ecco, alla stesura e agli indirizzi ideali di questa enciclica. Poi abbiamo con noi il professor Giorgio Vittadini. Buongiorno Vittadini. Buongiorno. Che è il fondatore e presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, insegna all'Università degli Studi di Milano Bicocca, e poi anche il professor Dario Antiseri, che buongiorno professore, buongiorno. Che insegna alla LUIS metodologia delle scienze sociali. Ecco, io prima di lasciare a voi la parola leggo un solo passo che tra quelli che mi hanno colpito di più dal paragrafo 35 e 36 di questa enciclica. Spesso si ha l'idea che la dottrina sociale della Chiesa sia ispirata, per così dire, da una sfiducia molto profonda verso il mercato, verso il profitto, eccetera eccetera. In realtà poi non è così. Io leggo, solo per consentire a chi ci ascolta e non è mai magari molto ferrato col tema, di capire qual è lo spirito testuale, ecco, letterale dell'enciclica su questo punto del mercato. Leggo dal paragrafo 35: il mercato, se c'è fiducia reciproca e generalizzata, leggo dall'enciclica, è l'istituzione economica che permette l'incontro tra le persone, in quanto operatori economici che utilizzano il contratto come regola dei loro rapporti e che scambiano beni e servizi tra loro fungibili per soddisfare i loro bisogni e desideri. Il mercato è soggetto ai principi della cosiddetta giustizia commutativa, che regola appunto i rapporti del dare e del ricevere tra soggetti paritetici, ma la dottrina sociale della Chiesa non ha mai smesso di porre in evidenza l'importanza della giustizia distributiva e della giustizia sociale per la stessa economia di mercato. Più avanti, nello stesso passo, si dice: la Chiesa ritiene da sempre che l'agire economico non sia da considerare antisociale. Il mercato non è e non deve perciò diventare di per sé il luogo della sopraffazione del forte sul debole. La società non deve proteggersi dal mercato, come se lo sviluppo di quest'ultimo comportasse ipso facto la morte dei rapporti autenticamente umani. È vero che il mercato può essere orientato in modo negativo, non perché questa però sia la sua natura, ma perché una certa ideologia lo può indirizzare in tal senso. Ecco, quindi faccio questa premessa solo per raccontare meglio testualmente a chi è a casa come il mercato, non in quanto tale, ma gli uomini che lo indirizzano in senso sbagliato, sono al centro dei temi di cui si occupa questa enciclica. Professor Zamagni, oggi naturalmente le voci e i primi commenti sulla stampa si allargano in un ventaglio molto largo. C'è chi, come Michael Novak, cattolico liberale americano, sulla stampa sottolinea che siamo comunque in un filone come quello della centesimus annus di forte coerenza nel dire che mercato e profitto sono cosa buona, naturalmente vanno utilizzati per la persona e per diminuire le differenze, e c'è chi sostiene invece che la parte centrale è il ritorno alla Populorum Progressio, 40 anni di distanza di Paolo VI. Secondo lei? Ma secondo me non hanno ragione negli uni e negli altri. In primo luogo perché Benedetto XVI dedica l'intero primo capitolo a riassumere la Populorum Progressio e dichiara esplicitamente che la sua enciclica è in linea, anche se la aggiorna e, come forse vedremo successivamente, la modifica in alcune parti. D'altra parte, la centesimus annus è il punto di riferimento, il punto direi di partenza di questa riflessione. Il punto è che, come sempre capita, come quando si guarda una montagna, c'è chi la scala da una parte parete, chi la scala dall'altra e così. L'importante, penso io, è arrivare in cima, quindi non mi meraviglio che ci siano sottolineature diverse di questo, di quel brano dell'enciclica, a seconda delle preferenze e delle visioni che ognuno legittimamente le... Quello che però importa, ed è la prima volta che in un documento a questo livello appare, è la chiara distinzione tra l'economia di mercato, appunto, in quanto tale, e una sua specifica, concreta e storica incarnazione, qual è il capitalismo. Cioè, il punto è che l'economia di mercato nasce prima, alcuni secoli prima del capitalismo, quindi non possiamo identificarlo, ma quindi non condanna, non è quindi un incidere, come qualcuno ha detto, anticapitalista. Semmai è un incidere che dice il capitalismo è la species, il genus, e come sappiamo dagli antichi latini, genus non comperi. In altre parole, l'economia di mercato nasce quando all'interno della Chiesa, in particolare grande merito della scuola di pensiero francescana, basterebbe conoscere i documenti a partire dal XII secolo avanti, e durante la fase della modernità questa economia di mercato si è concretizzata in una particolare forma. Abbiamo qualche problema sulla linea, prego Zamagni. Sì, no, che purtroppo sono in treno e quindi è arrivato in una piccola calvia. La linea mi pare che sia momentaneamente andata, comunque Zamagni aveva abbastanza spiegato che c'è una novità forte. Ecco, chiedo a Vittadini un commento, vi leggo un altro passo sul profitto, un altro dei punti delicati ovviamente per il Magistero della Chiesa. Dice al paragrafo 21 l'enciclica: il profitto è utile se, in quanto mezzo, è orientato ad un fine che gli fornisca un senso, tanto sul come produrlo, quanto sul come utilizzarlo. L'esclusivo obiettivo del profitto, se mal prodotto e senza il bene comune come fine ultimo, rischia di distruggere ricchezza e creare povertà. Vittadini, dal suo punto di vista, nell'evoluzione della dottrina, questa enciclica su quali punti l'ha particolarmente colpita? Ma ha colpito il nesso con l'antropologia, perché queste cose anche che si dicevano hanno loro la ragione nel fatto che l'enciclica parte ponendo la carità nella verità, è un'idea di uomo a tutto tondo, un uomo che è desiderio, che è di carità, che è relazione, che è amore al prossimo, per dirla come diceva Giussani, un dono di sé commosso. E allora è evidente che questo uomo che ha questa relazione non è un uomo negativo, che si difende, che si chiude, ma un uomo che vuole rapporti, che vuole costruzione, che vuole benessere, che vuole sviluppo. Questo tipo di uomo allora esige un mercato, un'economia che sia alla sua altezza, all'altezza di questa visione complessiva, né chiuso a difendere il passato o contro il mercato o a difesa di uno Stato contro il mercato, né affermando che il mercato in modo taumaturgico possa risolvere tutti i problemi della società. E quindi questa visione antropologica complessiva riporta lo stesso mercato sotto il profilo della disciplina economica, come lei diceva prima, alle sue vere dimensioni, a qualcosa che è uno strumento dell'uomo per portare un benessere per tutti. Se vogliamo, anche Smith parlava di valore di scambio come esito di un valore d'uso. Di questo Smith si parla poco, ma si parla proprio di un valore d'uso che è legato alla persona. E se vogliamo ancora un'assonanza con un grande economista, quando Arrow nel suo paradigma dell'impossibilità dice che l'unica conciliazione tra utilità individuale e benessere collettivo è nei desideri socializzanti, cioè in qualcosa che sta nel desiderio, nell'umanità, nella fede, nell'ideale, ha questo tipo di impostazione. Quindi diciamo che è un grosso contributo, partendo da una visione antropologica positiva, da un'esperienza in atto, ha una visione più complessiva di economia e da questo punto di vista anche una lettura più equilibrata e vera dell'economia. L'economia non è dei grandi editorialisti o professori che parlavano della finanza come l'unico modo per parlare dell'economia, ma di chi dice che la piccola media impresa, la grande impresa in tutto il mondo nasce da un desiderio di bene, di utilità, da una passione al prodotto, da un nesso tra il lavoratore e l'imprenditore, da un'azienda che è un coacervo di valori e non semplicemente un punto per raggiungere profitto. Da questo punto di vista si dice il profitto è uno strumento importantissimo, fondamentale, ma uno strumento per il bene di tutti. Secondo me è un'enciclica che rivoluziona l'idea stessa di economia, quindi non è il pensiero cattolico sull'economia, ma una visione di economia più equilibrata, più vera e più confacente a quella che è la realtà. E purtroppo negli anni scorsi, dimenticando questo, qualcuno ha creato gli sfracelli che abbiamo visto. Mi piace molto, devo dire, che Vittadini abbia richiamato l'Adam Smith pre mano invisibile, quello che si ricorda sempre, cioè quello della teoria dei sentimenti morali. Tutto il filone dell'illuminismo scozzese, Ferguson, Hutchins, esatto, e Adam Smith, viene da una concezione dell'uomo e della profonda moralità dell'avere a che fare gli uni con gli altri. L'economia serve a quello. Prima di chiedere la visione del liberale dichiaratamente pro mercato Antisseri, un ascoltatore, Massimo da Milano, prego. Pronto? Prego Massimo, ci dica. Sì, io ho una visione un po' particolare di questa cosa. Secondo me ci dovrebbe essere una divisione netta fra politica e economia, vale a dire il politico deve dare un indirizzo e l'economia lo deve seguire, e non ci deve essere un interscambio fra l'economia e la politica. Poi un'altra cosa, a volte demonizzano il pubblico, io invece ritengo che le cose vanno bene quando c'è la persona giusta, per cui può andare bene un'economia pubblica se la persona che la dirige è una persona corretta. Questo è il mio pensiero. Benissimo, lei dice quindi insomma c'è una certa gerarchia nell'etica, nei rapporti tra politica e l'economia, la politica dovrebbe indirizzare, l'economia dovrebbe eseguire. È una tesi un po' rischiosa, gli esiti hanno spesso dimostrato che fa molti danni la politica quando si mette a pretendere di formulare indirizzi etici. Io sono accetto l'idea che la politica possa farlo, preferisco che lo faccia il Papa, devo dire sinceramente la sincera verità. Professor Antisseri, qual è il punto di fondo secondo lei più innovativo di questa enciclica? Forse il fatto anche che si occupa a un certo punto, in certi passi, anche di finanza? Beh, anche di finanza, ma soprattutto io credo che quello che diceva ancora prima, sia diciamo sia Zamagni sia Vittadini, insomma, cioè la questione di fondo è vedere il mercato in funzione della persona umana. Questo credo che sia la grande, il punto importante oggi di questa enciclica, proprio nella situazione attuale in cui ci troviamo. Vorrei dire in sostanza che Zamagni ha perfettamente ragione, cioè dire che il mercato non è una configurazione storica, cioè e bisogna distinguere appunto perché c'è stato il mercato prima del capitalismo. Ora, d'altra parte, il profitto, già come diceva anche la Sinesimus Annus, è un segno che un'azienda, appunto, come un'industria, ha risolto un problema, ha creato un prodotto che viene incontro appunto ai cittadini, diciamo. E d'altra parte, voglio ricordare appunto che sia, come diceva Zamagni, appunto il francescanesimo del XIII secolo, sia poi la data scolastica, cioè nel mondo cattolico, si è sviluppati concetti, teorie appunto che hanno valorizzato il mercato. In ogni caso, quello che volevo dire, che voglio dire, rispondendo alla sua domanda, Carlino, è che il mercato è effettivamente una macchina potente di informazioni, cioè attraverso lo strumento dei prezzi. È anche uno strumento di libertà, perché senza mercato, se abbiamo un'economia appunto centralizzata, evidentemente, come ci ha insegnato Hayek, ma tanti altri, chi possiede tutti i mezzi stabilisce tutti i fini. Cioè, se non c'è la proprietà privata diffusa dei mezzi di produzione, noi siamo veramente in grave pericolo, perché il monopolio pubblico e privato significa appunto padronanza non solo dei mezzi ma anche dei fini. Io posso mettere su una Costituzione che c'è libertà di stampa, ma se poi tutto le cartelle, tutte le tipografie appartengono alla clica potere, questa libertà di stampa è veramente un'illusione. Come posso scrivere su una Costituzione, come avvenne in Russia, che c'è libertà di religione e di associazione, ma se poi tutti gli edifici, comprese le chiese, appartengono allo Stato, allora questa manca. Poi, ecco, come dicevo, non solo strumento di libertà, ma anche viene incontro appunto ai bisogni, è capace di assorbire le innovazioni del mercato e quindi di creare soluzioni per i nuovi problemi. In ogni caso, quello che nell'enciclica viene messo in evidenza è che il mercato non è tutto, indubbiamente, perché esistono valori importanti che non possono essere scambiati sul mercato, cioè ci sono la dignità della persona umana, il fatto che nessun uomo è più importante di un altro uomo, o l'attenzione che il Papa ha posto per esempio nel caso dei migranti, dove dice che è un fatto, scrive appunto che ogni migrante appunto è un uomo e ha diritti in quanto appunto uomo. Questo, ecco, scrive Papa, che il migrante è una persona umana in quanto tale, possiede diritti fondamentali inalienabili che vanno rispettati da tutti e in ogni situazione. questo credo che sia veramente il punto grosso e importante. Zamagni, rispetto a quello che è avvenuto sui mercati, al tema della finanza, l'eccesso di avidità, che l'analisi dell'enciclica sul punto morale da cui è scaturita anche la crisi, qual è? Viene fatta un'analisi approfondita e non di comodo di quelle che sono le radici remote della crisi. La letteratura di questi ultimi mesi ha giustamente si è soffermato sulle radici prossime, si è però così dimenticato le radici remote, che va in due grossi. Il primo è il cosiddetto avvento dell'ethos dell'efficienza, che va sotto il nome di finanziarizzazione dell'economia, l'efficienza che da strumento diventa fine, e quindi la finanza, che letteralmente finanza significa tutto ciò che ha un fine, diventa fine a se stessa, anziché, come ricordava prima Giorgio Vitadini, essere finalizzata alla produzione di beni, di servizi, quindi al lato reale dell'economia. Ora, questa si tratta veramente di un capovolgimento culturale ignoto ai decenni precedenti ed è avvenuto sull'onda di tutta una serie di fenomeni di cui la globalizzazione è maglia pars, ma non esclusivamente. Il relativismo è in senso culturale è responsabile di questo capovolgimento del rapporto tra finanza e lato reale. Questo ha determinato quell'approccio dell'avidità che ha trasformato il free market, per dirla in inglese, in greed market, cioè il mercato della vita, il mercato che è sempre stato visto come luogo di incontro tra persone e di liberazione dei rapporti interpersonali, ad un certo punto diventa l'istituzione della vita che rende possibile alle persone essere avide. E quindi è questo. La seconda, direi, causa remota che il Papa individua è nell'affermazione negli ultimi 30-40 anni di un modo nuovo di concepire l'impresa, e cioè the firm as a commodity, si dice in inglese, l'impresa come merce. E ignota lei ai due o tre secoli precedenti, l'impresa è sempre stata vista come una istituzione economica destinata a rimanere a lungo sul mercato. Negli ultimi 30-40 anni, anche ad opera di centrali di pensiero economico delle più prestigiose università in giro per il mondo, soprattutto però americane, si è affermata l'idea che l'impresa è una merce e come tutte le merci può essere comprata e venduta in relazione alle convenienze del momento. Ora, che cosa ha determinato questo? Che se l'impresa è una merce, ovviamente la decisione in merito circa l'acquisto o la vendita è degli shareholder, cioè degli azionisti. Ecco allora che gli altri stakeholders, che coloro che hanno pure interesse alla vita e alla vitalità dell'impresa, passano in seconda mano. Ecco quindi che questa inversione, l'impresa, ricordo che la corporation americana, il modello della corporation americana deriva, per quanto riguarda l'organizzazione, dalla vecchia organizzazione dei monasteri benedettini e cercensi. Questo chi conosce la letteratura di organizzazione aziendale americana lo sa bene, perché se noi prendiamo come erano organizzati i monasteri e la grande corporation americana, c'è una identità di. Invece negli ultimi 30-40 anni è venuto questo a coppolgersi. Allora il Papa dice: se l'impresa viene vista come merce, la domanda che si pone è: cosa ne è di coloro i quali hanno fino al tempo in cui viene ceduta lavorato? Cosa ne è, se possiamo pensare che coloro i quali lavorano in un'impresa debbano ad essa attenzione, a volte anche passione, possano dipendere dalle vicissitudini e dalle decisioni di mera convenienza economica per realizzare un capital gain, un guadagno in conto capitale di altri soggetti che magari fino a quel momento non se ne sono mai occupati? Intanto la fermo, Zamagni, perché dobbiamo, ohimè, cedere alle esigenze del mercato. Eccoci tornati in studio. Io devo dire che nella raffica di messaggi e sms che avete mandato ce ne sono alcuni che sono parecchio critici, e quindi io li giro a Vittadini per comunque trarne qualche spunto. C'è qualcuno che dice: ma non pensate per esempio che Rosmini e Sturzo si rivoltino nella tomba? E quindi qui ci si chiede nell'enciclica, traduco perché l'immediatezza del messaggio così è un po' troppo ruvido e aspro, non è che per sussidiarietà e libera espressione dell'individuo nel mercato eccetera non ce ne si occupa e ci si occupa solo della parte sociale, l'anti-grid, il fenomeno del no alla verità, eccetera, eccetera. Ecco, quindi questa prima riflessione. Seconda riflessione, dice: ma non bastavano i keynesiani e i socialisti che dominano il commento degli andamenti del mercato, ricondotti sempre a questa pretesa dell'eccesso di avidità? Ora state attenti a non far passare il Papa per uno di loro. Ecco, queste sono naturalmente le semplificazioni con cui però i cittadini bisogna fare i conti quando poi si tratta di ridurre in pillole un tema pur così alto come la dottrina sociale della Chiesa. Che diciamo? Torno alla questione antropologica. La gratuità come un fattore fondamentale dell'economia, lo dice in tutti gli aspetti, non solo nel non profit, la gratuità come dimensione dell'uomo che ha come conseguenza la responsabilità della persona e la sussidiarietà come metodo di affronto di tutti i temi, vuol dire i corpi intermedi, le realtà ideali, che sono qualcosa di diverso sia dal mercato inteso semplicemente a fini di lucro, sia dello Stato. Quindi abbiamo una visione molto più avanti, secondo me, del keynesianesimo e del socialismo. È l'idea che la dimensione dell'uomo, questa dimensione di relazione, ha a che fare anche con la costruzione del profitto, ed è così, perché uno che costruisce, che lavora, che fa un prodotto, se lo fa per il bene degli altri, fa anche più profitto, diventa più utile, anche se fa una lucidatrice, anche se fa una macchina, perché risponde a un bisogno. E allora questo vuol dire che l'uomo non sta da solo, ma si aggrega anche nella vita d'impresa, perché vuol dire il mondo associativo, il mondo, pensiamo ai distretti nella realtà italiana, pensiamo a queste realtà ideali che hanno dato vita al movimento cattolico, al movimento operaio e a un movimento di piccole e medie imprese in Italia che possa essere un movimento liberale per il progresso. Allora capiamo che stiamo parlando di qualcosa che è l'eredità di Rosmini e di questa eredità ottocentesca, perché al ribadire che queste semplificazioni ideologiche delle economie sono vecchie, sono del mondo moderno, non del mondo contemporaneo. L'ideologia socialista e l'ideologia liberista, che è molto diversa da liberale, sono riduzioni della realtà che non tengono conto che l'uomo è tutto intero. Tanto è vero che negli ultimi anni, anch'io ricordo una teoria, la teoria del capitale umano, per cui prima dei grandi premi Nobel finanziari, Becker negli anni 80, diceva che l'uomo come qualità, come investimento, come non solo come quantità, è un fattore fondamentale della produzione. E purtroppo, Vittadini, ricordiamolo, non è al centro della teoria dello sconto finanziario. Le imprese giustamente oggi, secondo me, lamentano, le banche ci danno o soprattutto ci negano di questi tempi credito, ma vanno solo a vedere i nostri numerini, quelli per Basilea 2, dove per esempio non c'è quanto capitale umano ci siamo impegnati a portare dentro la nostra impresa, quanto ci siamo impegnati a promuoverne, eccetera, eccetera, eccetera, mentre quella è una componente fondamentale della produzione del reddito. Il capitale umano, cioè la qualità del processo di formazione dell'uomo al centro della produzione. Ora, prima di ripassare la palla ad Antisseri, abbiamo Stefano da Roma. Sì, un saluto a tutti quelli che intervengono nella trasmissione. Dunque, io ho molto piacere di sentire questi contenuti da parte del Papa. Diciamo che è un riscoprirsi un neocristiano, cioè un ragionamento che a me sta benissimo. Il problema è che adesso, oltre, diciamo, a ragionare in termini teorici, potremmo stare qui ore e ore, se non giorni, e fare filosofia, e poi devono seguire i fatti concreti. Cioè, poi dopo la Chiesa cattolica deve essere coerente con quello che dice ed applicare un esempio pratico, altrimenti è soltanto un bel parlare. Ma nel senso che, scusi, lei la coerenza dove la vorrebbe? Negli stabilimenti che vengono controllati? La coerenza la vorrei nel dividere completamente quello che può essere, che ne so, lo IOR da un'attività religiosa. Cioè, non possiamo parlare di cristianesimo teorico e poi nella pratica essere ampiamente legati al profitto. E poi c'è un altro discorso per quello che riguarda i migranti. Io condivido completamente quello che dice il Papa, però i primi a dare un esempio dovrebbero essere proprio i cattolici, i cristiani e soprattutto i ministri di culto e anche le alte gerarchie. Loro hanno una marea di conventi, di siti, palazzi a Roma hanno il 75% delle proprietà immobiliari. Perché non cominciano loro ad ospitare queste persone che sono in cerca di sicurezza? Benissimo, molto chiaro. Devo dire la verità, a Verona questo suo appello, Verona città governata da sindaco Tosi, leghista, che ha fatto di questo tema uno dei temi dei cavalli di battaglia per la sua affermazione elettorale e per questo è anche molto popolare, a Verona è esattamente appunto quello che lei ha detto. Però il sindaco è andato in curia a dire: benissimo, siete titolari di molti appartamenti, e la curia ha detto: infatti, li mettiamo a disposizione. Quindi lei fa inviti alla coerenza, ma le do l'esempio concreto del sindaco più amato in testa al governatore della popolarità, che ha fatto esattamente quello, ma ottenendo esattamente dalla curia la risposta al problema. Abbiamo un altro ascoltatore, Dino da Padova. Sì, buongiorno. Buongiorno e grazie dell'opportunità di esprimere un'opinione. Confesso che quello che sto per dire è l'evoluzione, nel senso che per formazione sono un ingegnere e gli aspetti economici ho incominciato a masticarli un po' tardi nella mia carriera. Quello che io dico è che la verità è una componente fondamentale dell'economia. Infatti non a caso c'è qualcuno che parla di asimmetria informativa, proprio per descrivere fenomeni dove si realizzano accumuli illeciti di ricchezza giocati su questa. Quindi accanto alla verità posta come obbligo morale in carico ai singoli, io sono dell'opinione che con un superamento di quelle che possono essere le teorie socialiste bisogna lasciare alla collettività, intesa come insieme di tutti gli altri singoli, come ciascuno di tutti gli altri singoli, che devono avere gli strumenti, se lo vogliono, per poter esercitare il controllo se qualcuno ha realizzato, si è mentito. Non mi è molto chiara quello che ha detto, devo dire la verità, perché io su questo poi penso anche che bisogna esprimersi con una certa chiarezza. Lo vedo da molti messaggi che arrivano, che dicono: ma quante sciocchezze state dicendo? Chi deve decidere in un'impresa se vendere o comprare, se non gli azionisti e chi la controlla? Come si fa a immaginare una teoria per cui al centro delle decisioni dell'impresa c'è qualche cosa di diverso dall'utile di bilancio da realizzare e dal tentare di farlo? Leggo il messaggio: sì, è vero anche per i propri dipendenti, ma innanzitutto per se stesso. Ecco, siamo a una delle questioni centrali, ecco, tutto sommato, a volte dell'irriducibilità dell'impresa, dell'attività economica ad altro che al puro risultato economico, alla sua massimizzazione. Antisari, che dice su questo? Questo, secondo me, semplicemente che quello che dice il Papa punta su una cosa molto importante, perché dice sostanzialmente che l'impresa non deve pensare solo al guadagno dei manager e dei padroni dell'impresa, ma deve pensare anche a coloro che lavorano dentro l'impresa, perché l'impresa è fatta da questi dirigenti, da questi padroni, diciamo così, e da coloro che ci lavorano dentro. Quindi il problema appunto non è che si possono lasciare queste persone che lavorano allo sbando perché io devo guadagnare. Questo è un fatto molto molto importante. In ogni caso io vorrei tornare, Gianino, se lei permette, brevemente sul problema appunto di quello che ha fatto il capitalismo. Cioè la gente non si rende, noi non ci rendiamo conto di quello che il capitalismo, cioè l'economia di mercato, ha fatto per la liberazione, dell'uomo, per la dignità dell'uomo. Diceva Einstein nel 1936 che se oggi nelle piantagioni non si portano più appunto gli schiavi, è semplicemente perché la tecnologia ha liberato appunto questa ha reso libera questa situazione. O pensiamo cosa ha significato un giorno Popper ad Amburgo, fece una conferenza tra fischi in cui disse che la liberazione della donna, la emancipazione della donna l'aveva fatta la lavatrice e non i movimenti, per carità anche i movimenti femministi, ma i movimenti femministi. Cioè la tecnologia veramente, pensiamo quello che succede per la medicina, per altre cose, per i tipi di lavoro pesanti. Cioè questo capitalismo è produzione di massa veramente per le masse. Ma vorrei tornare su un punto, quando l'ascoltatore diceva che Rosmini e Stusso si rivolterebbero nella tomba. No, nell'Encilica c'è una valorizzazione proprio profonda della sussidiarietà. Quando nel capitolo 57, ecco, si dice che la sussidiarietà è prima di tutto un aiuto alla persona attraverso l'autonomia dei corpi intermedi, e soprattutto dice: per non dar vita a un pericoloso potere universale di tipo monocratico, il governo della globalizzazione deve essere di tipo sussidiario, articolato su più livelli e su piani diversi che collaborino reciprocamente. Io credo che questo sia un punto molto molto importante, cioè i corpi intermedi sono veramente la garanzia appunto della libertà delle persone contro quello che è un potere che potrebbe essere veramente soffocante. Quindi non c'è, non può, Rosmini e appunto Sturzo, i quali sostenevano appunto che il pubblico, sia esso l'Europa, la nazione, la regione, la provincia eccetera, il comune, non deve fare ciò che i cittadini sanno fare da soli o in questi corpi intermedi, e questa è una cosa molto importante, per esempio per quello che riguarda la scuola, perché non capisco perché ancora in Italia non è stato messo dentro quello che è il mezzo importante che si chiama il voucher, cioè il buono scuola, che dà libertà ai cittadini e con la competizione aiuta la scuola pubblica e la scuola privata a migliorarsi. La questione di fondo non è abolire la scuola di Stato, che è un patrimonio grande che va salvato, ma è quello di salvarlo dagli statalisti, cioè da coloro che pensano che lo Stato debba avere il monopolio della gestione della scuola. Quindi ecco, non è vero appunto che la sussidiarietà non venga orizzontale, non venga appunto venga tralasciata da questa enciclica, anzi è un punto importantissimo appunto di questa enciclica. Zamagni, io sono sommerso in realtà da messaggi che continuano a dire, sono troppo belle parole lontane dalla nostra esperienza di operatori, lavoratori, imprenditori, dipendenti. Mi è arrivata un'altra mail durissima che dice che stiamo facendo accademia e filosofia, però il problema degli effetti duri, durissimi, di tantissimi disoccupati nel mondo avanzato, ma anche di tanta gente che era entrata nel processo di miglioramento del proprio benessere nei paesi emergenti attraverso il commercio mondiale, è qualcosa che mi pare colpisca molto duramente in profondità il mondo. Perché pensa che queste parole sembrano, tanta gente, sembrano così lontane, professor Zamagni? Perché prima non le capiscono e secondo perché sono accecate dall'ideologia, perché se c'è un'enciclica che invece lascia intendere chiaramente, anche se non può esplicitamente indicarle, vie di soluzione al problema della precarietà, della disoccupazione, della valorizzazione della persona umana e dell'eliminazione delle disuguaglianze, è proprio questa. Allora, chi non riesce a vederla, io consiglio di cambiare gli occhiali, cioè dire di cambiare il modo con cui si legge questo. Siamo talmente abituati ad un'impostazione ideologica e anche culturale in senso scientifico che quando qualcuno arriva e ci prospetta una via di soluzione pervia, cioè possibile, non riusciamo a vederla. Questo non è la prima Temo anch'io che gli occhiali culturali. Torneremo sull'ultima parte, la dedicheremo proprio a quello. Eccoci tornati in studio. Io ricordo a tutti che questa enciclica esce non a caso anche nei giorni in cui il G8 proprio in queste ore comincia i suoi lavori all'Aquila straordinariamente. Sapete, non c'è il presidente Hu Jintao, era una grande novità la partecipazione del presidente della Cina al G8, è dovuto partire nel corso della notte per via dei disordini degli Uiguri, la minoranza islamica duramente repressa dalle autorità cinesi. Un ascoltatore e poi torniamo con i nostri ospiti. Abbiamo Valerio che chiama dalla provincia di Varese. Prego Valerio. Sì, buongiorno, grazie per la possibilità. Il mio pensiero era rivolto a questa enciclica in questi termini: più etica vuol dire, vorrei fare una battuta, più etica uguale anche più business, per chi capisce che disciplinare certe attività, quali ad esempio appunto le banche, io sto parlando a livello finanziario, e assicurazioni, possano dare più fiducia ai cittadini, ai risparmiatori, i quali potrebbero maggiormente fidarsi, quindi investire e fidarsi un po' di più di queste istituzioni. Invece se questi campi non sono disciplinati e non hanno delle regole certe, un'etica, per me si va in una direzione sbagliata. Più etica io vorrei dire anche per quanto riguarda l'informazione e i media, che secondo me dovrebbero fare più informazione e a volte meno terrorismo mediatico, però qui si va in un altro, grazie, un altro campo. Sì, in effetti è un altro campo. Grazie Valerio. Vittadini, questa è una cicla che dedica una parte importante anche dello sviluppo dei suoi temi alla centralità proprio dell'analisi dell'economia non basata sul profitto, ma sul dono, sullo scambio della fraternità, ma che è tale da ingenerare poi conseguenze piramidali in tutto il mondo, che sono anche economiche e sociali. Ecco, infatti io voglio riprendere le cose dette prima dicendo che l'enciclica è innanzitutto la lettura della realtà, perché per esempio questa economia del dono, questa presenza di ideali nell'economia ha avuto nel nostro paese e in tutto il mondo aspetti fondamentali. Tutto il mondo del non profit, anche della Chiesa, ha permesso il benessere, un welfare che lo Stato non darebbe più e un'idea semplicemente privatistica di Stato, di non universale, non permetterebbe. Ha permesso alle grandi multinazionali di porre temi fondamentali che prima erano ignorati, ma è diventata ed è anche fattore fondamentale della piccola e media impresa in tutto il mondo, perché la piccola e media impresa è presa di questi ideali, perché gli imprenditori sono anche quelli che hanno permesso il welfare, hanno costruendo ospizi, scuole, opere di assistenza, punti di aiuto ai lavoratori. Ed è esso stesso un aspetto fondamentale del profitto, perché io ribadisco questo: se io voglio il profitto vero e non la rendita, cioè non vendere l'impresa e vendere di rendita, io devo avere una finalità di dono in quello che faccio, devo amare il prodotto, devo costruire, devo amare il cliente che faccio. Per cui questo aspetto del dono è un aspetto fondamentale e realista. Chi parla di realismo di qui ha una visione, come diceva giustamente Zamagni, di un'economia che non esiste, è stato riempito di pillole e non vede che cos'è la realtà. Antisseri, un messaggio appena arrivato dice: i nostri campi oggi sono più pieni di schiavi di quanto non avvenisse nel secolo scorso, e intendo i nostri campi, due punti, quelli italiani di pomodori. Beh, è un messaggio di quelli che riporta a una certa dura realtà, non le pare, Antisseri? È perfettamente vero. Qui ci dovrebbero essere appunto le istituzioni che dovrebbero appunto che dovrebbero funzionare, insomma, prendere questi diciamo così imprenditori che fanno queste cose e veramente, cioè, dare le giuste sanzioni contro questi signori qua. Torno sul problema della carità. La carità, ecco, dice il Papa nell'enciclica, non è una riserva di buoni sentimenti. Io credo che questo sia veramente veramente giusto, vero. Insomma, la carità, dice il Papa, e leggo, eccede la giustizia, perché amare è donare, offrire del mio all'altro, ma non è mai senza la giustizia, la quale induce a dare all'altro ciò che è suo, ciò che rispetta e ragione del suo essere e del suo operare. Cioè, quando il Papa parla di carità, non parla di cose astratte, ma parla di giustizia, di pace, di eliminazione della fame, della miseria, appunto. È la miseria della fame, che se eliminiamo la fame, dice il Papa, appunto, ecco, avremo sicuramente più pace. Ora io voglio dire, per esempio, prima un ascoltatore diceva che la Chiesa Cattolica deve dare l'esempio, ma io penso che se gli Stati avessero fatto quello che fa la Caritas, o quello che hanno fatto i missionari in Africa, costruendo appunto ospedali, scuole, università e cose del genere, io penso che l'Africa non sarebbe nella situazione in cui c'è. Ecco, ora Giovanni Paolo II, nell'Ascendiesimus Annus, diceva che temeva che la globalizzazione potesse diventare una nuova forma di neocolonialismo, diciamo, no? E questo è indubbiamente un pericolo. Ma allora, di nuovo, ecco che il dono, per esempio, dovrebbe significare dare qualcosa a quelli che sono più poveri, ed è più povero oggi chi non sa e chi non può, chi non sa perché non ha cultura e chi non può perché è dentro a leggi appunto opprimenti. Allora, ecco, per esempio, la costruzione delle scuole, se la cooperazione degli Stati europei, anche del nostro paese, fosse stata a creare classi dirigenti di ingegneri, medici, tecnici agrari, ecco, per questi paesi, noi avremmo fatto una cosa, un dono molto importante a questi paesi, invece di mandare ascensori dove non c'era appunto l'elettricità, ovvero mandare appunto valanghe di armi. Questo penso che sia, ecco, quello che, certo, il Papa intende per dono. Io segnalo a proposito di dono un meccanismo concreto, alla fine del paragrafo 60 c'è una cosa che piacerà inevitabilmente molto Giulio Tremonti, lo sostiene da anni, perché dice: una possibilità di aiuto per lo sviluppo, leggo dall'enciclica, potrebbe derivare dall'applicazione efficace della cosiddetta sussidiarietà fiscale, permettendo ai cittadini di decidere sulla destinazione di quote delle loro imposte versate allo Stato, evitando degenerazioni particolaristiche. Ciò può essere d'aiuto per incentivare forme di solidarietà sociale dal basso, con ovvi benefici anche sul versante della solidarietà per lo sviluppo. Ecco, se andiamo all'agenda del G8 che apre in queste ore, professor Zamagni, questa enciclica, al di là della semplificazione di dire ci vuole un'autorità di governo a livello mondiale, che poi mal si coniuga con la sussidiarietà, che significa appunto rispetto per le diverse forme di governance nelle diverse macro aree del mondo, ma qual è, andando al punto, l'obiettivo del Papa all'agenda dei temi di questo G8, secondo lei? Ma direi che i problemi della globalizzazione non possono essere risolti a livello nazionale, questo questo è il primo. Allora, bisogna arrivare ad una governance, che però non è government. Purtroppo nella lingua italiana abbiamo solo una parola governo. Nella lingua inglese ci sono due parole. Qui il Papa, quando si legge nella versione italiana governo, intende governance, non government. Quindi non intende un superstato che assommi i poteri, ma una, e questa governance, aggiunge il Papa, deve essere di tipo sussidiario e poliarchica. Poliarchica vuol dire con una pluralità di potere decisionale, deve essere decentralizzato, e sussidiario vuol dire trasferire a livello transnazionale il principio di sussidiarietà quale è finora stato applicato a livello nazionale. Comunque, l'Encirica non deve contenere proposte, ma ancora una volta non ci vuole tanto per estrarre da queste indicazioni proposte concrete, ad esempio quella di costituire un Consiglio di sicurezza dentro le Nazioni Unite che si occupi delle questioni economico-sociali. Oggi la sicurezza non è solo quella militare, ma anche quella alimentare, quella legata alle riserve d'acqua e così via. Non è possibile che su queste questioni non sia una sede a livello transnazionale dove le problemi di questa fatta possono essere affrontati. Se così fosse stato, la crisi del 2007 che ha visto morire di fame diversi milioni di persone, perché è successo nel 2007 qualcosa che sfida qualunque legge economica, in presenza di un eccesso di offerta di riso e di granaglie. Esatto, eppure certamente. Io devo ringraziare, fermando il professor Zamagni, oltre al professor Vittadino e il professor Antiseri, vi ricordo che la Thatcher diceva: il buon samaritano lo ricordiamo tutti per la purezza delle sue intenzioni, perché si fermò a dare una mano, ma non era poi così secondario che potesse donare, perché era stato bravo a fare i soldi. In sintesi, questa è poi un po' anche la mia filosofia. Io ringrazio Peter Bescapè in regia, e i miei bracci destri, Gloria Guerrero e Laura Faggin, della linea GR. Appuntamento a domani.